Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo un'altra bellissima storia di quel calcio che ci piace così tanto, una storia che affonda le radici nella TV in bianco e nero. Vi raccontiamo una carriera da calciatore di un uomo che scappa da un barrio argentino, scappa dagli stenti, dalla povertà e vive una carriera epica, prima in Francia e poi in Italia, dove nasce una grande amicizia con un grande eroe del calcio nostrano, è un mito. Poi ve ne parleremo bene. Comunque, una tragedia diventerà un'occasione per dimostrare quanto questa amicizia fosse importante. Oggi vi raccontiamo del giocatore franco-argentino Néstor Combin. E con felpato passo di tango approdiamo in Argentina. Siamo nel 1940 a Las Rosas, distretto di Santa Fe, nel nord dell'Argentina. È un paese che conta poche migliaia di abitanti, e vivere lì, vivere nel barrio, significa sopravvivere in quegli anni, avere ogni giorno il contatto con la povertà e con la voglia di andarsene. Ho cominciato a giocare a pallone molto presto perché non avevo altro. A 8 anni nella squadra della scuola, poi in una squadra amatoriale, fino a quando a 17 anni mi chiesero se volevo provare a giocare in Francia. Siamo in un altro periodo storico, non ci sono i procuratori che programmano le carriere di un giocatore fin da quando è bambino. Qua ci sono dei giocatori, dei giornalisti appassionati che riescono magari a combinare un provino con una squadra, e poi sta al giocatore dimostrare di essere un uomo vero, di essere capace di giocare a pallone. Così per il nostro eroe, il giovane Néstor Combin, si aprono le porte della Francia, si va a Lione, e il Lione sta cercando un attaccante da crescere per le giovanili. L'inizio non fu facile. Ero giovane, non conoscevo la lingua, ero solo. Però quando arrivai in Francia vidi che la situazione era molto diversa da quella in cui avevo vissuto in Argentina, e decisi subito che la Francia sarebbe stata la mia casa per molto tempo. E lui si conquista un posto in prima squadra, 5 stagioni in cui va avanti, segna, piace, e finalmente arriva un'offerta, è molto allettante, un'offerta dall'Italia, da una squadra importante nella quale gioca un altro giocatore argentino, uno dei più grandi, Omar Sivori. La squadra è la Juventus. Un anno alla Juve, una Coppa Italia vinta, poi si va a Varese e poi si torna a Torino, però indossando un'altra maglia, la maglia della leggenda, la maglia granata dei rivali della Juventus. È il Torino, e dentro a questa squadra c'è un ragazzo che diventerà suo amico, un ragazzo coi capelli lunghi che per Torino, per l'Italia intera, diventerà un mito: Gigi Meroni. Gigi Meroni, uno dei primi grandi fantasisti del nostro calcio, degli anni in cui spesso il fantasista aveva la maglia numero 7, pensate solo a Meroni e a George Best. È un'icona in quegli anni in Italia, agli abiti sgargianti, ai capelli lunghi, ha un modo di fare anticonformista. I ben pensanti magari storcono il naso, ma per i giovani Gigi Meroni diventa un punto di riferimento. E poi ha un buon carattere, è altruista anche in campo quando non si intestardisce sulle sue mitiche serpentine, e ha appunto la mitica maglia numero 7. Lui a Torino dal 1964, l'allenatore è Nereo Rocco. Non ci sono vittorie di campionato o di coppa nella bacheca di quel Torino, eppure quel Torino di Gigi Meroni diventa indimenticabile proprio per le invenzioni di quel ragazzo che sa disegnare abiti, sa dipingere, sa ballare. È una figura carismatica che trascina tutto il gruppo. Combin in quel Torino indossa la maglia numero 9, diventa il punto di riferimento delle azioni di Meroni, perché quando Meroni sta dribblando qualcuno sulla fascia sa che se lui crossasse in mezzo c'è lui, Néstor Combin, e lui va a segno 31 volte in 3 stagioni. Eh sì, perché la grandezza di Meroni, come di tutti quei giocatori, era l'assist. Lui magari fa dei dribbling, si intestardisce, salta un uomo, poi torna indietro e lo risalta un'altra volta, ma c'è sempre per lui la possibilità di concludere l'azione con un passaggio a favore di un compagno. Questa è la differenza. Il suo altruismo permette a Combin di esprimere il suo fiuto per il gol. È una coppia d'attacco di due complementari. E poi anni dopo, nel Torino di Radice, arriveranno Pulici e Graziani a fare un'altra grande coppia. E poi ci sono dei ragazzi in quel Torino, giovani, che in quegli anni magari non mostrano la sicurezza dei calciatori di oggi, però sono abituati a stare sotto pressione. Così nel Torino esordisce anche, per esempio, un giovanissimo Aldo Agropi. La partita è Torino-Sampdoria, 15 ottobre 67. Il falco e il gabbiano. Siamo a quel 15 ottobre 1967 in cui il Torino batte 4-2 la Sampdoria con tripletta di Combin e quarto gol di Moschino, esordio di Aldo Agropi. È una squadra mitica, pensate che io me ne ricordo ancora la formazione: Vieri, Poletti, Fossati, Agropi, Puglia, Ceresar, Meroni, Ferrini, Combin, Moschino, Facchin. Una squadra che aveva, come dire, un'identità e un'anima molto pronunciata. E poi una grande famiglia, i giocatori sono amici, si frequentano anche fuori dagli impegni calcistici. È un bel periodo. A fine partita si parla già della domenica successiva, perché la domenica successiva c'è il derby con la Juventus, partite che a Torino, sponda granata, valgono una stagione. Là Gigi mi ha detto: permette che domenica prossima giochiamo, il derby, c'è il derby Juventus-Torino. Va bene, c'è un trinesto, dai, io domenica prossima farai 3 gol ancora. E queste sono le parole di Combin in una puntata di Sfide dedicata proprio a Gigi Meroni. Eh sì, perché Meroni si siede vicino al suo centravanti, gli mette una mano sulla spalla e gli dice queste parole: farai una tripletta contro la Juventus. Sembrano parole buttate lì, come spesso accade, e invece diventano una profezia molto amara, dolorosa, ma anche con dentro qualcosa di meraviglioso. Noi eravamo abituati ad andare la domenica dopo le partite giocate in casa, andare in ritiro in un albergo cittadino. Però una volta a tavolo, a cena, forti di questa vittoria del pomeriggio, cominciammo a incalzare l'allenatore Edmondo Fabbri, chiedendogli di andare a casa. Edmondo Fabbri alla fine lascia liberi i giocatori, che tornano in famiglia. Meroni e Poletti, il suo compagno di squadra, il numero 2, escono assieme e si fermano in un bar. Prima non ci sono ancora i telefonini. Lui, Meroni, deve chiamare casa, dove c'è Christiana Understad, che è la sua compagna, una compagna con la quale ha vissuto anche un momento di clamore, perché la stampa ha cavalcato questo scandalo, visto che non c'è ancora il divorzio e lei formalmente viene considerata adultera perché è ancora sposata. Il bar si affaccia su Corso Re Umberto, è una delle strade più belle, più importanti, più trafficate di Torino, e infatti c'è molto traffico quella sera perché la partita è appena terminata. Poletti e Meroni escono dal bar e attraversano la strada, si fermano sulla linea di mezzeria attendendo che un gruppo di auto li superi, e in quel momento accade qualcosa di imprevedibile. Un passo all'indietro, un'auto che sopraggiunge e l'impatto è inevitabile. Poletti viene colpito alla caviglia, si accascia rimanendo a centro strada. Meroni viene colpito in pieno, il suo corpo viene sbalzato sulla corsia opposta, dove viene travolto da un'altra auto. Ero in casa da poco e stavo guardando la televisione quando un amico suonò alla porta. «Devi venire», mi disse. «Gigi ha avuto un incidente, è stato investito da un'auto e lo hanno portato in ospedale». Questo è quello che ricorda Nestor Combin di quella sera. La 124 Sport che investe Gigi Meroni è guidata da un ragazzino di 19 anni, un ragazzino che, per ironia del destino, nella sua camera ha appeso al muro il poster di Gigi Meroni. È un tifoso sfegatato del Torino risponde al nome di Attilio Romero. E pensate il destino, lo stesso Romero che nel 2000 assumerà la presidenza della squadra cercando di mantenere viva la speranza di salvarla dal fallimento, cosa che non gli riuscirà. Romero considera Meroni il miglior giocatore al mondo, si tagliava i capelli e si vestiva in modo da assomigliarli, insomma è incredibile il gioco del destino per il quale tu sei in macchina e investi quello che è il tuo idolo. E il corpo di Meroni viene portato all'ospedale con l'auto di un passante, l'ambulanza è rimasta incastrata nel traffico del dopopartita. Combin è tra i primi a arrivare, parla coi medici, vuole entrare per vedere, per accertarsi che il suo amico non sia ferito così gravemente. È un atleta, il suo fisico è forte, deve sopravvivere, ma alle fratture alle gambe, al bacino, il trauma cranico sono troppo gravi anche per il fisico forte e allenato della farfalla granata. Meroni muore la sera del 15 ottobre 1967. A Nestor Combin tornano in mente le parole del compagno di squadra: segnerai 3 gol alla Juventus. E sembrava una frase qualunque detta sulla scia dell'entusiasmo. Bene, diventa una missione da compiere, un colpo d'ala per onorare la memoria dell'amico la cui vita è stata spezzata da un terribile destino beffardo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia del calciatore franco-argentino Nestor Combin. Abbiamo parlato della sua carriera nata per strada, abbiamo parlato della fuga da una situazione difficile, l'approdo in Francia a Lione, poi una breve parentesi alla Juve e poi il Varese, ma poi il Torino, dove lui con Meroni forma una coppia di attaccanti micidiale. Poi arriva la sera del 15 ottobre 67, un'auto travolge, uccide Meroni in una delle strade più importanti di Torino, un'intera città è sconvolta, ma tutto il paese è sconvolto. Per Combin è un dolore terribile per avere perso soprattutto il suo amico. E io mi ricordo quel lunedì 16 ottobre 67, allora non c'era internet, le notizie arrivavano alla spicciolata. Il lunedì mattina a scuola sono venuto a sapere che Meroni era morto in quel modo e mi ricordo le facce attonite di tutti i miei compagni. Nessuno era tifoso del Torino, ma Meroni era un idolo per tutti noi bambini. Ma andiamo al 22 ottobre 1967, è passata una settimana dal giorno dell'incidente e c'è già stato il funerale di Meroni e si dice che Combin si sia inchinato davanti alla bara dell'amico e gli abbia detto qualcosa. E forse stiamo per capire che cosa Combin ha detto a Meroni. La città si è fermata e nessuno ha pensato al calcio, si sono allenati pochissimo, sia il presidente Orfeo Pianelli che l'allenatore Fabbri non hanno certo voluto mettere troppa pressione ai giocatori. La partita è difficile, il Torino è una squadra da metà classifica, la Juventus è la Juventus e i tifosi probabilmente sarebbero già contenti se si riuscisse a strappare un pareggio, ma c'è un amico da ricordare, da onorare sul campo e queste cose possono far partire un colpo d'ala collettivo. C'è una squadra che fa gruppo, vuole ricordare al meglio Gigi Meroni, il suo Gigi Meroni, tutti vogliono dare il massimo. Contro la Sampdoria avevo segnato 3 gol e a fine partita Gigi mi aveva detto che ne avrei fatti 3 anche alla Juventus. Quando entrammo in campo io avevo solo una missione da compiere, fare i 3 gol per onorare la memoria di Gigi, e lui mi ha dato la forza per farli. Siamo in anni in cui non c'erano le maglie personalizzate, si giocava con le maglie dall'1 all'11. Il Torino entra in campo e c'è un ragazzino, si chiama Alberto Carelli, che deve indossare la maglia numero 7, quella di Meroni. Comincia il derby e Combin si scatena. Segna un gol su punizione, poi fa un gol da 30 metri dopo aver saltato degli avversari e poi c'è una zampata che mette la palla nell'angolino basso alle spalle del portiere. E a siglare il quarto gol c'è proprio Alberto Carelli, il ragazzino che ha quella maglia così pesante sulle spalle. E sugli spalti si gioisce, si piange, c'è un momento di commozione indescrivibile. La tripletta di Combin rimane uno dei momenti più memorabili della storia del calcio granata. E quell'anno Combin sfiorerà anche la vittoria nella classifica cannoniere. Nel settembre 1969 Combin si trasferisce dal Torino al Milan, che è stato preso in mano da Nereo Rocco, ed è un Milan molto forte. L'anno precedente aveva vinto lo scudetto, la Coppa delle Coppe, e poi il 28 maggio del 69 aveva battuto l'Ajax conquistando la sua seconda Coppa dei Campioni. E i nomi erano nomi di tutto rispetto: Schnellinger, Rosato, Trapattoni, Amrin, Prati, Lodetti e naturalmente Gianni Rivera. Insomma, era una squadra fortissima, allenata tra l'altro dal mitico Nereo Rocco, che lui aveva già conosciuto a Torino. E arriva l'autunno di quell'anno, si gioca la Coppa Intercontinentale contro gli argentini dell'Estudiantes. È una delle partite più belle, tragiche, tremende, avventurose della storia del calcio. Noi ne abbiamo già parlato diffusamente quando abbiamo raccontato la storia di Nereo Rocco, ma bisogna vedere anche e raccontare il punto di vista di Néstor Combin, perché all'interno di quella terribile partita, che ci ha raccontato anche Gianni Rivera, c'è stato anche un caso diplomatico tra Italia e Argentina. Andiamo con ordine. 8 ottobre del 69 a Milano il Milan vince 3-0, due gol di Sormani e uno proprio suo, di Néstor Combin. Gli argentini la prendono malissimo e promettono di vendicare l'affronto subito nella partita di ritorno. Un 3-0 è difficile da recuperare, però qualche vendetta e uno se la prende. E infatti sarà una partita terribile, con un clima ostile che Rivera ci ha raccontato. Insomma, una partita che di calcio aveva veramente poco. In più Combin viene preso di mira dalla stampa e anche dai tifosi, perché essendo argentino viene considerato un traditore in patria. Il 22 ottobre si gioca a Buenos Aires, Combin viene accolto con le solite domande che si fanno quando qualcuno torna a casa dopo molto tempo. Y con nosotros Néstor Combin, argentino, contento de estar nuevamente en su patria. Muy contento porque es la primera vez que voy a jugar en un, diciamo, en una cancha que siempre he soñado cuando era chico. Combin, ¿se siente italiano o argentino? Me siento argentino, una demanda muy mala. Me daría lástima de que gane el Milan. Eh sì, lui vuole stemperare gli animi, dice che è molto contento di tornare a celebrare, insomma, il suo riscatto, dice che si sente argentino, insomma, si dovrebbe solo parlare di calcio, e invece non sarà così. La partita diventa un ring, c'è una caccia all'uomo, giocatori che hanno dei ferri da calza nella maglia per colpire i giocatori del Milan, botte. A calcio si gioca veramente poco. Combin viene colpito con un pugno, probabilmente dal portiere Poletti, lo stesso che verrà radiato a vita per un calcio sulla schiena a Pierino Prati. Insomma, Combin ha il naso e uno zigomo fratturati. C'è una fotografia mitica che lo ritrae steso per terra con la maglia bianca intrisa di sangue. Il Milan perde 2-1, segneranno Rivera, Conigliaro e Aguirre Suarez, e conquisterà la Coppa. Ma per Combin il peggio deve ancora venire. Cos'era successo? Che quando Combin si era trasferito in Francia aveva acquisito la doppia cittadinanza, era quindi diventato a tutti gli effetti un cittadino francese e aveva assolto i suoi doveri di militare nel servizio militare francese. Però siccome gli argentini quella vittoria del Milan sulle Estudiantes se l'avevano presa veramente malissimo, vogliono cercare un modo per rifarsi contro quello che ritengono il principale responsabile, lui, Néstor Combin. Così a fine partita, nell'infermeria dello stadio, quella in cui Combin, ricordate, sta cercando di curarsi il naso e uno zigomo fratturati, arriva la polizia che arresta Combin con l'accusa di essere un disertore. Scoppia un caso diplomatico, tutto passa in secondo piano. Combin, che va a passare con te? Se va, le han dato permesso, tiene che ir a Rosario, il presidente Onganía lo deja ir, come è? Le dirò che ora sto esperando, lo sto esperando qui, che le dia permesso per irsi? Permesso per irsi. Falta poco. falta poco, credo che sta. Sì? Sì, credo. Combin minimizza perché ha paura, ma ha passato una notte in cella e nel frattempo ambasciatori e ministri si sono parlati in una sala dell'ambasciata italiana a Buenos Aires. Una giornalista lì gli chiede cosa stia succedendo, lui con un filo di voce dice che sta aspettando che il Presidente della Repubblica gli conceda il permesso di ripartire per l'Italia, ma ha molta paura. Ma per fortuna il Milan è una squadra compatta, i giocatori sono stati chiari: o ce ne andiamo con Combin o noi non lasciamo Buenos Aires. Alla fine il presidente argentino è costretto a mollare e a Combin viene concesso di ripartire. Sul suo volto ci sono tutti i segni della battaglia della sera precedente: l'occhio nero, il naso rotto, lo zigomo rotto. Alla fine, quando tutta la squadra è sull'aereo, i giocatori si sfogano con un liberatorio gesto dell'ombrello. Grazie Rivera, e a proposito di giocatori che prendono in mano la partita, accanto a lei c'è un volto abbastanza eloquente, quello di Combin. È un volto che parla, diremo, proprio da solo. Come si sente con me? Questa è la cosa. Abbastanza bene. Abbastanza bene? Sì, bene. Cioè, è passata veramente, sì. No? È stata una serata un poco da incubo. Soprattutto non è stato il male che mi ha causato. È stato dopo la partita. Sì, certo. Ho avuto più paura ancora. Certo, l'incidente che le è successo. Sì, l'incidente. Beh, insomma, tutto è stato poi chiarito. Sì, tutto. Senta, con me, a proposito, si vede che lei è disgraziato in questo senso. Io questa sera devo darle purtroppo una brutta notizia. Abbiamo fatto una veloce inchiesta e il risultato è che lei non è in regola con il canone di abbonamento. Grandissimo Enzo Tortora, che sdrammatizza in questo modo la disavventura terribile di Combin negli studi della Domenica Sportiva, e sa gestire da grande qual era la situazione. Oggi Combin vive in Francia, dove ha concluso la carriera nel 77. In Argentina ci è tornato raramente, ha preferito rimanere in Europa, il luogo dove ha vissuto momenti di gloria calcistica, dove ha condiviso un'amicizia unica con un grande campione come Gigi Meroni, e lui è rimasto molto legato al suo amico con la maglia numero 7. Qui i colpi d'ala sono parecchi, colpi d'ala di un uomo, di una squadra, anzi di due: un grandissimo Torino che vince un derby pochi giorni dopo la perdita del suo giocatore più rappresentativo, con 3 gol di Combin, e una grande squadra che fu il Milan, che vinse la Coppa Intercontinentale in quella battaglia. In entrambi i casi a volare con queste due squadre c'era lui, Nestor Combin. E noi vi aspettiamo con altre storie. Se volete che noi ci si soffermi su qualcosa che vi interessa, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, Facebook, Twitter, sui nostri social, insomma, lo sapete, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Pipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.